Dal 1 gennaio 2007 più nessun bambino avrebbe dovuto vivere in orfanotrofio. La legge 149 del 2001 imponeva la chiusura degli istituti, erano 215. Un anno e mezzo dopo solo 12 sono stati davvero chiusi, 189 hanno messo in atto un'operazione di maquillage trasformandosi in comunità e 14 restano aperti, 5 dei quali senza bambini. Francesco Paolo Occhiogrosso, presidente del Centro di Analisi per l'Infanzia degli Innocenti di Firenze e presidente del Tribunale dei Minori di Bari. Abbiamo indicazione numerica di 9 istituti assistenziali aperti, 2 istituti che sono in Puglia, 2 che sono in Calabria e gli altri in Sicilia, per un totale di 48 bambini. Marco Griffini, presidente dell'Associazione Amici dei Bambini. Purtroppo si sono presi gli istituti, si sono messi magari in alcuni dei cartongessi e così si è rispettata la legge. È un'operazione maquillage ma molto rischiosa, nessuno mi nasconde che poi non ci sia sotto anche un business economico, perché insomma basta vedere quanto costa un minore all'istituzione. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore.